sia il vento che spolvera ogni cuore. Benvenuto sia dal cielo dell'umile Signore, che muta un canto triste in splendida canzone. Benvenuto sia il sorriso, abito di ogni paradiso. Benvenuto sia ogni giorno chi di pace ha bisogno. Benvenuta sia la pioggia che dona l'abbondanza. Benvenuta come non mai per ogni uomo la speranza. Benvenuta sia la vita a cui tanto derubiamo. Benvenuta sia la sera che riposa il corpo umano. Benvenuto sia il pensiero di chi ha l'animo sincero. Benvenuta sia la stella che riluce in ogni terra. Benvenuto sia il sorriso, abito di ogni paradiso. Benvenuto sia ogni giorno chi di pace ha bisogno. Benvenuta sia la pioggia che dona l'abbondanza. Benvenuta come non mai per ogni uomo la speranza. Benvenuto sia il sorriso, abito di ogni paradiso. Benvenuto sia ogni giorno chi di pace ha bisogno. Benvenuta sia la pioggia che dona l'abbondanza. Benvenuta come non mai per ogni uomo la speranza.